ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. La sera della mia visita a Cime tempestose, sapevo con certezza, come se lo avessi visto, che il signor Heathcliff si aggirava intorno alla casa ed evitai di uscire perché avevo ancora la sua lettera in tasca e non volevo subire altri fastidi o minacce. Avevo preso la decisione di non consegnarla finché il mio padrone non fosse stato assente, dal momento che non potevo prevedere l'effetto che avrebbe avuto su Catherine. Di conseguenza, lei non la ricevette che 3 giorni dopo. Il 4° giorno era domenica e la portai nella sua stanza dopo che tutti, in famiglia, erano andati in chiesa. A guardare la casa con me era rimasto solo un altro domestico. D'abitudine chiudevamo le porte a chiave durante le ore della funzione, ma quel giorno c'era nell'aria un tepore così piacevole che le spalancai e, per tenere fede al mio impegno, sapendo chi sarebbe venuto, dissi al mio collega che la signora aveva un gran desiderio di arance e quindi lui doveva correre al villaggio a comprarne, dicendo che le avremmo pagate il giorno dopo. Lui si allontanò e io andai di sopra. La signora Linton indossava un ampio vestito bianco con uno scialle leggero sulle spalle ed era seduta come al solito nel vano della finestra aperta. I suoi capelli, lunghi e folti, erano stati in parte tagliati all'inizio della malattia e ora li portava pettinati semplicemente secondo la loro naturale ondulazione, sciolti sulle tempie e sul collo. Era cambiata d'aspetto, come avevo detto a Heathcliff, ma quando era tranquilla sembrava ci fosse in lei una bellezza ultraterrena. Una dolcezza sognante e malinconica aveva sostituito i lampi dei suoi occhi, che non sembravano più guardare gli oggetti attorno a lei, ma fissarsi al di là, molto al di là, si sarebbe detto fuori da questo mondo. Sul davanzale di fronte a lei c'era un libro aperto e una brezza, appena percettibile, ne agitava le pagine di tanto in tanto. Penso che fosse stato Linton a metterlo là, perché lei non cercava mai di distrarsi con la lettura né con altre attività, mentre lui passava ore intere a tentare di attirare la sua attenzione sulle cose che un tempo la divertivano. Le campane della cappella di Gimmerton stavano ancora suonando e si sentiva il flusso pieno e dolce del torrente giù nella valle. Era un piacevole sostituto del mormorio del bosco estivo che, quando gli alberi rimettevano le foglie, copriva la musica dell'acqua attorno alla Grange. A Cime tempestose si faceva sentire nelle giornate serene, dopo un grande disgelo o un periodo di piogge ininterrotte. Ed era certo a Cime tempestose che Catherine pensava, mentre ascoltava, se mai pensava o ascoltava. Aveva quello sguardo vago e distante di cui ho parlato prima e non lasciava trapelare alcuna coscienza delle cose materiali, come se non le vedesse né le sentisse. «C'è una lettera per lei, signora Linton», dissi, facendola gentilmente scivolare nella mano che riposava sulle ginocchia. «Deve leggerla subito, perché richiede una risposta. Vuole che le tolga io il sigillo?» «Sì», rispose lei, senza mutare la direzione dello sguardo. L'aprì, era molto breve. «Ora», continuai, «la legga». Lei ritrasse la mano e la lasciò cadere. Gliela rimisi in grembo e restai ad aspettare che si decidesse ad abbassare lo sguardo. Ma lei rimase immobile così a lungo che alla fine ripresi: «Devo leggerla io, signora? È del signor Heathcliff». Ci fu un sussulto, un oscuro balenare del ricordo e uno sforzo per riordinare le idee. Sollevò la lettera e sembrò leggerla. Quando arrivò alla firma, sospirò. Però compresi che non ne aveva colto il significato, perché quando le chiesi qual era la risposta si limitò a indicare il nome e a rivolgermi uno sguardo interrogativo pieno di dolore e di ansia. «Vuole vederla», dissi, indovinando che aveva bisogno di un interprete. «A quest'ora è in giardino, impaziente di sapere quale risposta gli porterò». Mentre parlavo, vidi che un grosso cane, sdraiato sull'erba al sole, drizzava le orecchie, come se stesse per abbaiare, e poi le riabbassò, segnalando con il suo scodinzolio l'avvicinarsi di qualcuno che non considerava un estraneo. La signora Linton si sporse in avanti e rimase in ascolto, trattenendo il fiato. Un attimo dopo, un passo attraversò l'ingresso. La casa aperta era una tentazione troppo grande perché Heathcliff resistesse all'impulso di entrare. Probabilmente riteneva che non volessi mantenere la mia promessa e così aveva deciso di affidarsi all'audacia. Affannata e trepidante, Catherine fissò lo sguardo sulla porta della camera. Lui non individuò la stanza al primo tentativo e lei mi fece cenno di farlo entrare, ma Heathcliff trovò la strada prima che io raggiungessi la porta e in un passo fu al suo fianco e la strinse fra le braccia. Non parlò, né allentò l'abbraccio per circa 5 minuti, durante i quali le diede più baci di quanti ne avesse mai dati in tutta la sua vita, credo. Ma fu la mia padrona a baciarlo per prima e io vidi che lui non aveva quasi il coraggio di guardarlo in faccia, tanto era sconvolto. Dal momento in cui l'aveva vista, aveva avuto la certezza, come me del resto, che non c'era alcuna speranza di guarigione. Era sicuramente condannata. Cati, vita mia, come posso sopportarlo? Fu la prima frase che pronunciò, con un tono che non cercava di nascondere la disperazione. E ora la fissava con una tale passione da farmi pensare che la sola intensità di quello sguardo gli avrebbe riempito gli occhi di lacrime. Invece ardevano di angoscia e non si sciolsero in pianto. «Tu, Edgar, mi avete spezzato il cuore!» «Heathcliff», disse Catherine, «e tutti e due venite ora a lamentarvi da me come foste voi quelli da compatire. Io non ti compatirò di sicuro. Tu mi hai uccisa e ci hai guadagnato in salute, mi pare. Come sei forte! Per quanti anni hai intenzione di vivere dopo che me ne sarò andata?» Heathcliff si era inginocchiato per abbracciarla. Tentò di alzarsi, ma lei lo tenne fermo, prendendolo per i capelli. «Vorrei poterti tenere così», continuò con amarezza, «finché non fossimo morti tutti e due. Non mi importerebbe di farti soffrire. Non mi importa nulla delle tue sofferenze. Perché non dovresti soffrire anche tu, come me? Mi dimenticherai? Sarai felice quando io sarò sottoterra? Fra 20 anni dirai... ecco la tomba di Catherine Earnshaw. Tanto tempo fa l'amavo e mi disperavo per averla perduta, ma è passato. Da allora ne ho amate molte altre. I miei figli mi sono più cari di quanto lo fosse lei e alla mia morte non sarò felice perché vado a raggiungerla, ma infelice perché devo lasciare loro. E questo che dirai, Heathcliff? Non torturarmi fino a farmi impazzire come te!» gridò lui, liberandosi con uno strattone e digrignando i denti. «Tu hai il diavolo in corpo per parlarmi in quel modo mentre stai morendo? Sai di mentire quando dici che ti ho uccisa. E Catherine, sai che dimenticarmi di te sarebbe come dimenticarmi della mia stessa vita. Non basta il tuo infernale egoismo che mentre tu sarai in pace io mi contorcerò nei tormenti dell'inferno. Non sarò in pace io», gemette Catherine. Non disse altro. Poi continuò con maggiore dolcezza. «Non ti auguro tormenti più grandi dei miei, Heathcliff. Voglio soltanto che non ci separiamo mai. E se una mia parola ti facesse soffrire, d'ora in poi, pensa che io sottoterra provo lo stesso dolore. E ti prego, per amor mio, perdonami. Vieni qui, inginocchiati ancora. Non mi hai mai fatto del male in tutta la tua vita. No, se rimani in collera con me, Per te sarà un ricordo peggiore delle mie parole più dure. Non vuoi venire di nuovo qui? Vieni. Heathcliff si accostò allo schienale della sedia e si chinò, ma non tanto da lasciare che gli vedesse la faccia, livida per l'emozione. Lei si girò a guardarlo. Lui non glielo permise. Si voltò bruscamente e andò verso il camino, dove rimase in silenzio, dandogli le spalle. La signora Linton lo seguiva con uno sguardo sospettoso. Ogni suo gesto destava in lei un sentimento diverso. Dopo una pausa e uno sguardo prolungato, riprese a parlare, rivolgendosi a me in tono di indignata delusione. «Vedi, Nelly, non ha un attimo di pietà, neppure per salvarmi dalla tomba. È così che sono amata. Bene, non mi importa. Questo non è il mio Heathcliff. Io continuerò ad amare il mio e lo porterò con me. Ce l'ho nell'anima. E, continuò pensosa, la cosa che più mi irrita in fondo è questa prigione in sfacelo. Sono stanca, stanca di stare rinchiusa qui. Non vedo l'ora di fuggire in un mondo più bello e restarci per sempre. Sarò io a provare pena per te. Sarò incomparabilmente al di là e al di sopra di tutti voi. Ma perché non vuole starmi vicino? Heathcliff, pensavo che lo desiderassi. Heathcliff, caro, non farmi il broncio adesso. Vieni da me, Heathcliff. Nella sua impazienza si alzò, appoggiandosi al bracciolo della sedia. A quel richiamo così accorato, lui si voltò verso di lei con un'espressione di assoluta disperazione. I suoi occhi, spalancati e finalmente umidi, lampeggiarono furiosi su di lei, mentre il suo petto si sollevava convulso. Per un istante si fronteggiarono a distanza e subito dopo furono riuniti, senza che io riuscissi a vedere com'era avvenuto. Catherine balzò in avanti e lui l'afferrò e furono avvinti in un abbraccio dal quale credetti che la mia padrona non sarebbe mai uscita viva. Poi un gesto di Catherine mi diede un po' di sollievo. Alzò un braccio per circondargli il collo e accostare la guancia a quella di lui, che intanto la sorreggeva e mentre la ricopriva di frenetiche carezze le disse concitato: «Ora mi fai capire quanto sei stata crudele, crudele e falsa. Perché mi hai trattato con disprezzo? Perché hai tradito il tuo stesso cuore, Cathy? Non ho nessuna parola di conforto per te. Te lo sei meritato, ti sei uccisa da sola. Sì, mi puoi baciare e piangere. I baci e le lacrime che mi strappi adesso ti distruggeranno, ti faranno dannare. Tu mi amavi, e allora che diritto avevi di lasciarmi? Che diritto, rispondimi, per quel tuo miserabile capriccio per Linton? Perché non avrebbero potuto separarci né la miseria, nell'umiliazione, nella morte, né nessun'altra cosa che Dio o Satana avrebbero potuto infliggerci. Niente. Sei stata tu, di tua volontà, a farlo. Non sono stato io a spezzare il tuo cuore. L'hai spezzato tu. E insieme al tuo hai spezzato anche il mio. Peggio per me, che sono forte. Se voglio vivere, che vita sarebbe quando tu, Dio, piacerebbe a te vivere quando la tua anima è chiusa in una tomba? Lasciami stare, singhiozzò Catherine. Se ho sbagliato, pago con la morte. È abbastanza, no? Anche tu mi hai abbandonata, ma non ti rimprovero. Io ti perdono. Tu perdona me. È difficile perdonare e guardare questi occhi e toccare queste mani scarnite, rispose lui. Baciami ancora e non farmi vedere i tuoi occhi. Ti perdono per quello che mi hai fatto. Io amo chi mi ha ucciso. Ma come posso amare chi ha assassinato te? Nel frattempo il mio disagio aumentava. Il pomeriggio stava passando in fretta. L'uomo che avevo mandato a fare compere era tornato e alla luce del sole che volgeva a occidente distinguevo una piccola folla che si andava formando fuori dal portico della cappella di Gimmerton. «La funzione è finita», annunciai. «Il padrone sarà qui tra poco». Heathcliff borbottò una bestemmia e strinse più forte Catherine. Lei non si mosse. Poco dopo vidi passare sulla strada un gruppo di domestici. Il signor Linton li seguiva a poca distanza. Aprì lui stesso il cancello e si avvicinò a passi lenti, probabilmente godendosi quel bel pomeriggio e l'aria dolce come d'estate. «Sta arrivando!» esclamai. «Per amor del cielo, si spicci a scendere! Deve fare presto e rimanga nascosto fra gli alberi finché lui non sarà entrato!» «Devo andare, Cathy», disse Heathcliff, cercando di liberarsi dalle braccia di lei. «Ma se sarò in vita, ti rivedrò prima che ti addormenti. Non mi allontanerò». «Non devi andartene», rispose lei trattenendolo con tutta la forza. «Non devi, ti dico». «Per un'ora», la supplicò lui ardentemente. «Neanche per un minuto», rispose lei. «Ma devo. Linton sarà qui da un momento all'altro», insistette allarmato l'intruso. Stava per alzarsi e fece per staccarsi dalle sue dita, ma lei gli si aggrappò con tenacia, ansimando. Aveva in faccia una risolutezza folle. «Oh no!» urlò. «No, non andare! Non andare! È l'ultima volta! Edgar non ci farà del male! Heathcliff, io morirò! Morirò!» «Maledetto idiota, eccolo qui!» gridò Heathcliff, lasciandosi ricadere sulla poltrona. «Zitta, cara! Zitta, zitta, Catherine! Resterò. Se mi uccide ora, morirò con una benedizione sulle labbra». Ed eccoli nuovamente abbracciati. Sentii il padrone salire le scale e un sudore freddo che mi scorreva sulla fronte. Ero inorridita. «Non vorrà dare retta al suo delirio», dissi con slancio. «Non sa quello che dice. La vuole rovinare, approfittando che lei non ragiona. Si alzi! Basta un attimo e sarà libero. Questa è l'azione più diabolica che abbia mai fatto. Siamo tutti rovinati, il padrone, la padrona e la domestica». Mi torcevo le mani e gridavo forte. A quel rumore il signor Linton affrettò il passo. Pur sconvolta com'ero, fui contenta di vedere che le braccia di Catherine erano ricadute e che la testa pendeva abbandonata. «È svenuta o morta?» pensai. «Meglio così. Molto meglio morta, piuttosto che continuare a essere una fonte di infelicità per tutti quelli che le stanno attorno». Edgar, pallido per lo stupore e la collera, si lanciò contro l'ospite indesiderato. Quali fossero le sue intenzioni non saprei dirlo. L'altro però gli troncò in un istante ogni rimostranza, mettendogli fra le braccia quel corpo apparentemente senza vita. «Guarda qui», disse. «Almeno che tu non sia un demonio, prima aiutala, poi parlerai con me». Se ne andò nel salotto e si sedette. Il signor Linton mi chiamò e con grande difficoltà, dopo numerosi tentativi, riuscimmo infine a farle riprendere i sensi. Ma era completamente stranita, sospirava, gemeva, non riconosceva nessuno. Edgar era talmente ansioso per lei che dimenticò il suo odiato nemico. Ma io no. Non appena mi si presentò l'occasione, andai da lui e lo scongiurai di allontanarsi, affermando che Catherine stava meglio e che la mattina seguente gli avrei fatto sapere come aveva passato la notte. «Non mi rifiuterò di uscire da questa casa», rispose Heathcliff, «ma rimarrò nel giardino. E Nelly, ricordati di mantenere la tua parola domani. Sarò sotto quei larici. Attenta, o ritornerò, che Linton sia in casa o no».